Era Brass Tracks con Melanie Mann. Intanto che i nostri ospiti si stanno preparando per farci sentire qualcosa di un po' particolare, andiamo avanti un po' con la musica di Wolf Trips e questo remix di Flapo. Lui è di Miami, è nato a Bogotà, e il remix di Sun Weekend con Make You Mine. We'll be right back. E questo in realtà è il pezzo di Dro e Lo e non di Flappo. Ho confuso io, ho fatto partire il pezzo successivo. Ma oggi abbiamo come ospite i Murmurmori e abbiamo con noi, che non si fa presente, Mirko, ecco, perfetto. Ciao Mirko, ciao a tutti voi. Si stavano già preparando per farci ascoltare qualche brano tra un po'. Cioè, avevamo già parlato con voi tempo fa in una intervista. Qualche settimana fa. Sì, in un'intervista telefonica. Che tra l'altro ho avuto anche lì un po' di problemi. Con ma lì perché eravamo in montagna, non prendeva assolutamente niente. Ok, ok, dai. E dai, ripresentati un attimo, ripresentaci un po' il Ripresento vostro progetto. Di me c'è poco da dire. Più che altro è meglio parlare del progetto. Noi ci chiamiamo Murmurmori. Esistiamo da ormai 2 anni, 3 anni, non tantissimo. Siamo al nostro secondo disco che si chiama Radice. E le tracce che andremo a suonare oggi sono alcune che abbiamo selezionato dal disco nuovo, appunto Radici. Tutto il disco è nato dal fatto che noi abbiamo deciso di musicare leggende e fiabe della tradizione popolare italiana, perché sostanzialmente all'interno di queste leggende, di queste fiabe, c'è tanta saggezza popolare che era un po' il modo con il quale venivano istruiti i bambini piuttosto che anche poi gli adulti con messaggi contenuti all'interno di queste storie. Noi abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo preso varie leggende, varie fiabe da più regioni italiane possibili, perché non siamo riusciti a trovarne, ce n'erano, dato che ce ne sono molte che in realtà hanno varie varianti nelle varie regioni, insomma, e quindi abbiamo selezionato un po' quelle che ci hanno colpito di più, ecco. A me ha colpito parecchio gli strumenti che utilizzate. Noi cerchiamo di mantenere un approccio molto molto molto acustico e direi anche a volte un po' primitivo della musica, cioè nel senso, in fin dei conti cerchiamo di evitare il più possibile l'utilizzo dell'elettronica, e difatti anche nel nostro disco questo si sente molto molto forte. È un disco molto organico, cioè sembra più come l'atmosfera che abbiamo cercato di creare è un po' quella che si crea all'interno delle osterie dopo aver magari mangiato, e a un certo punto salta fuori una chitarra, una fisarmonica e iniziano a cantare. Ecco, questa è un po' l'idea alla quale noi ci ispiriamo per la nostra musica, ecco, insomma, almeno per questo disco. Perfetto, io direi che adesso lanciamo un prossimo brano, intanto vi preparate e poi dopo vi lascio tutto lo spazio che volete. Ok, va bene. A dopo. Thank you. Ok, ok, adesso ci siamo e direi che possiamo iniziare con alcuni brani dei Murmurmori estratti dal loro album Radici. Ciao a tutti, come ho già detto noi siamo Murmurmori, la canzone che andremo a suonarvi ora si chiama Gut Virgini ed è la prima delle leggende di cui vi parlavo prima, una leggenda piemontese ma che in realtà si ritrova su tutto l'arco alpino del nord Italia. Il Gut Virgini era una figura leggendaria che aveva la particolarità di avere i piedi rivolti al contrario, cioè una cosa che a livello di simbolico indica una persona o comunque un essere completamente controcorrente. Il Gut Virgini era una figura popolare perché aveva insegnato agli alpigiani, secondo sempre la leggenda, a filare la lana, a fare il burro con il latte, il formaggio, eccetera, eccetera. E su di lui ci sono varie leggende, come del resto su tutti i personaggi, ma quella che noi abbiamo deciso di musicare è quella che appunto ci ha colpito di più perché parla della volta in cui l'ultimo Gut Virgini ha lasciato il nostro mondo e soprattutto la ragione per la quale l'ha lasciato. Questa è Gut Virgini. Sbagliato. nostro così va ucciso pur catturato, quel bambino non sapeva chi fosse quel signore nel prato, per mille stagioni o forse più nel bosco aveva dimorato, quando quel nanetto lo udì rispose assai rattristato, se voi piccoli dite così è perché ve lo hanno insegnato, un gomitolo verso il cielo lanciò e sul filo si arrampicò, sparì e mai più ritornò. Questo era il secondo brano, giusto, dell'album. Esatto. Questo era Good Year Game. Uno di quelli che preferisco, devo dire la verità. Sì. Per me è così, anche io. Perché è uno dei primi che abbiamo fatto e quindi... Forse perché è uno dei primi che abbiamo fatto e quindi di conseguenza ci sei un po' più affezionato. Sì, ci sta. Dato, riprenditi pure un attimo con calma, non ti preoccupare. No, perché immagino che parli... No, fa caldo. Te l'avevo detto. Sì. Allora... Voi... Andiamo avanti. Allora, il pezzo che invece andremo a fare ora è un parla di una leggenda, anche questa sempre del nord Italia. Nella fattispecie il personaggio di cui andiamo a trattare è l'uomo selvatico, che come personaggio è diffuso in tante regioni italiane, tant'è che lo si ritrova anche in maniera anche un po', secondo me, misteriosa in molti affreschi in varie chiese medievali, proprio perché forse c'è stato un periodo in cui, dato che questa figura era così conosciuta a livello popolare, la chiesa, che era solita fare cose di questo tipo, ha deciso di, piuttosto che sradicare il culto nei suoi confronti, di prenderlo all'interno dei suoi santi e magari cambiargli semplicemente nome. Quindi si ritrova questo uomo che, magari se ci fate caso, in certe cattedrali o disegni, affreschi, così, è un uomo molto peloso con una clava, cioè tipo un uomo primitivo, e questo è la figura dell'uomo selvatico. L'uomo selvatico, nella leggenda che abbiamo musicato, viene convocato. Questa leggenda, tra l'altro, nella fattispecie arriva proprio da Macugnaga, che è un paese in Piemonte. La leggenda di questo paese parla della volta in cui il prete di paese, avendo dei sospetti sul fatto che non vedeva mai questo eremita, no, in chiesa, decide di farlo convocare proprio per confessarlo, no, per capire il perché non partecipasse assolutamente alla vita religiosa del paese. L'uomo, allora, dubbioso, scende dalla montagna e si presenta al prete. Il prete a questo punto lo vede arrivare in chiesa e quando lo sta per confessare succede una cosa che secondo noi ha dell'incredibile, perché Lui vuole, chiaramente si ritrova in un ambiente che non è familiare a lui, in quanto lui è abituato a stare nella natura, che poi paradossalmente è lì che nel caso si potrebbe, volendo, trovare qualcosa di divino, non all'interno magari di una cosa costruita dall'uomo. In ogni caso si ritrova in questo ambiente un pochettino sconosciuto per lui e nel momento in cui cerca di appendere il suo giaccone succede una cosa che secondo noi ha dell'incredibile. Questo è Il sole e l'eremita. Love. E questo era il brano Il Sole e l'Eremita, esatto, giusto? Sì. Perfetto, perfetto. Sto seguendo intanto dalla scaletta dell'album. Sì, sì, man sì, mano che fate i pezzi. Sì, come sì. Va il caldo? Guarda, se riusciamo magari a mandare un pezzo. Vuoi riprenderti un attimo? Sì, ci sì, sta, va bene, caldo. Va bene. Allora, andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi dopo riprendiamo con i murmurmori che si riprendono un attimo il fiato. Ci vuole per forza. Andiamo ad ascoltare Blend con il brano Back to Summertime. I didn't mean to let you slip my mind, but every day it seems there's just no time. I meant to write, there's just so much to say, but when I said the words just fade away in the nighttime. When it's quiet I still think of you, and all the times we shared could have been summer love, it seems so. Il pezzo di Blend, lui è di Londra, col brano Back to Summertime. Con sto caldo direi che più che Back to Summertime ci vorrebbe Back all'inverno. Intanto ricordo che domani sera saremo a fare un DJ set a Marnate per la festa, la notte bianca della città. Adesso andiamo ad ascoltare il brano che vi avevo promesso prima, ma in realtà per qualche motivo la regia me l'aveva skippato, ed è un remix di Flapo di Saint Weekend con Make You Mine. To five, we go out tonight, acting like we're best of friends, but it's a lie. What do I do about me and you? I know it's mutual and it's so hard to fight. When you look in my eyes, looking at you, when I shut in tonight, so what do I do? Tra poco riprendiamo con il piccolo live che ci stanno deliziando i Murmurmori. Abbiamo fatto una pausa più che altro per condizioni meteorologiche, sì, della radio, mettiamola così, dai. Adesso vedremo di adeguarci con qualcosa di un po' più tecnologico, non so, un ventilatore o qualcosa, perché qua ci sono le nubi di calore, non so, sono tutte addensate qua. È desertico. Ok, ok, continuiamo quindi. Il prossimo pezzo che andrete a suonare è? La tomba nel Busento. Ok. La tomba nel Busento è una canzone che, diciamo, questa volta il testo non l'abbiamo scritto noi, è una poesia di un poeta austriaco che poi Carducci ha tradotto in italiano, e parla del re dei Goti Alarico, che dopo aver conquistato intorno al 410 d.C. Gran parte dell'Europa centrale e del nord Italia, si stava spingendo verso il sud per andare in Africa. Arrivato però in Calabria, lui contrae la malaria e muore. Prima di morire però ordina ai suoi soldati, ai suoi uomini, di seppellirlo insieme a tutti i suoi tesori sotto il letto del fiume Busento, che è un fiume che passa più o meno vicino a Cosenza. I suoi uomini allora fanno questa opera incredibile di far spostare agli schiavi il fiume di deviarlo, quindi, e nel letto del fiume Busento calano proprio Alarico con i suoi tesori, dopodiché rimettono il fiume, diciamo, al suo posto. La cosa terribile è che, per mantenere segreta la locazione della tomba, tutti gli schiavi che avevano contribuito e partecipato ai lavori vengono uccisi dai suoi uomini. Noi abbiamo preso alcune strofe, alcuni versi di questa poesia, non per celebrare Alarico, che è una cosa che io tengo sempre a specificare, ma più che altro per ricordare, diciamo, il fatto che tante persone sono morte per questa opera, e soprattutto per il fatto che, come dice appunto l'ultima strofa, nel momento in cui tu muori, poi dopo siamo sempre, insomma, tutti uguali. E nella strofa finale, detto da me, è terribile, ma se lo dice Carducci, insomma, ha un altro effetto. Difatti nel verso finale, infatti, lo sentirete. La tomba nel Busento. Ok, abbiamo ascoltato un altro bel pezzo. Questo era bello carico, eh? Sì. Era tosto nei suoni. È grintoso. Grintoso. È morta tanta gente, bisognava essere un po' arrabbiati. Sì. È bello, molto carico, molto carico. Ascolta, volevo farti una domanda prima che continui. Dimmi tutto. Ma io mi stavo leggendo un po' i titoli dell'album. E dato che qua c'è un ospite che ovviamente non nessuno un può vedere, che però non manca mai, ecco, nelle nostre... Io immagino che c'è una c'è traccia un dedicata a lui, dedicata giusto? Dedicata a lui, sì. Perché praticamente è Sirio, che è il nostro piccolo aiutante, oltre che, diciamo, il nostro roadie. Ci aiuta come mascotte nei nostri concerti, è il nostro cagnolino, specifichiamolo, perché sennò sembra che stiamo parlando di chissà quale strano essere. Una strana creatura. Sì, perché loro chiaramente non vedendo. No. Tra l'altro. No, beh, no, lui è Sirio, è il nostro. Sì, abbiamo deciso di dedicargli questo. Ho scoperto che nel gergo tecnico si chiama filler. E questo piccolo intermezzo, insomma, all'interno del disco, in quanto in fin dei conti. Lui è stata, anche se in maniera un pochettino, diciamo, strana, una, anche lui un'ispirazione per questo, per più che altro per la musica di questo disco, ovviamente non per le tematiche, perché il piccolo Sirio. Per quanto tenero e carino, non è una leggenda, diciamo, ecco. Vabbè, è giusto così, sì, anche sì, perché trattate dei temi molto, come sì, avete sì, l'ultimo sì, brano sì, no, molto... no, diciamo che serve anche un attimo per alleggerire un po', perché comunque questo disco è un disco, almeno a mio giudizio, molto, non è uno di quei dischi che, diciamo, metti per ballare. Ok, quindi l'ascolto. Esatto, anche se comunque spesso, come nella canzone che abbiamo appena suonato, i ritmi sono un pochettino spediti, in fin dei conti le tematiche rimangono sempre un pochettino di concetto, quindi non è mai leggero, e questo momento musicale all'interno del disco lo rende un pochettino più gioioso, insomma, perché in fin dei conti le fiabe hanno anche questo, cioè non sono solamente una morale, un tradimento, una morte, c'è anche tanta felicità, che tra l'altro anche nelle fiabe poi dopo si narra sempre la storiella carina, in realtà poi dopo, andando a leggere la versione originale, non è proprio così. Sì, ma poi soprattutto ora, visto che hai detto questa cosa, voglio un attimo, soprattutto abbiamo scoperto cercando tante fiabe qui in Italia, eccetera eccetera, che molto spesso non si capisce per quale ragione, però qui in Italia le fiabe hanno una censura terrificante, evidentemente pensano che il nostro stomaco non sia abbastanza forte per reggere le cose che poi in realtà non sono per nulla, cioè a confronto di un qualsiasi, ora magari dico una cosa un po' banale, ma di un qualsiasi telegiornale è proprio una cosa... No, non è banale, è giusto, è vero. Cioè, è vero. In realtà c'è molta più poesia all'interno di una fiaba, e per quanto possa poi magari essere violenta, rispetto che in una violenza... Oltre che poesia c'è proprio anche una morale, cioè ha un senso quello che viene detto. Ma perché principalmente, in fin dei conti, prima la conoscenza veniva trasmessa oralmente dai nonni ai più piccoli, e quindi piuttosto che andare a dire non devi andare nel bosco la notte perché puoi cadere in un burrone, era meglio spiegare una fiaba in modo che il bambino comunque alla fine il fine era lo stesso, cambiava solamente il modo in cui veniva, e questa cosa un po' si è persa, forse banalmente per il fatto che non c'è più tempo. E questa cosa sembra un po', però non c'è proprio più tempo di stare ad ascoltare e soprattutto di raccontare. E questo disco chiede tanto alle persone, perché gli chiede proprio il tempo e la pazienza di stare lì. Non è immediato, ma nel momento in cui ti arriva qualcosa, sicuramente sarà qualcosa che in una qualche maniera... In fin dei conti queste fiabe non sono nostre, sono di tutti. E quindi nel momento in cui tu riconosci qualcosa all'interno di questo disco, di te da piccolo, eccetera, eccetera, è normale, perché le fiabe ci siamo cresciuti tutti, solo che ce le siamo dimenticate, e questa cosa noi volevamo un pochettino riportarla in questi tempi dove purtroppo tutto è estremamente fast e via, insomma. Sì, sì, o molto commerciale, diciamo, che non è fatto anche, per solo per sì, fine a se stesso. Sì, perché in fin dei conti il ritornello rimane, e quindi di conseguenza anche lì è fast, passami il termine, nel senso l'hai presa subito, ma dopo una settimana ti dimenticherai di quella canzone, perché ce ne sarà già un'altra uguale, che... mentre invece certe leggende, certe canzoni non possono essere dimenticate. Quindi noi abbiamo deciso di fare questa cosa. Poi, se le persone arriverà, bene, se non arriverà, per noi la cosa più importante era farla, appunto. Infatti, no, non è essenziale quello. No, l'importante è farlo. Capisco la logica. Va bene, ti ho rubato un po' di tempo per chiacchierare, vogliamo introdurre l'altro brano? Sì, abbiamo tempo per farne due oppure ne possiamo fare? Perché dici tu, perché... Ma se... guarda, io sì, allora sicuramente uno sì, poi vediamo, allora il secondo vediamo. Allora facciamo Radici. Okay. Sì. Allora, che è il brano principale. Esatto, il brano che andremo invece a suonare ora, che probabilmente sarà l'ultimo ed è anche l'ultimo del disco, abbiamo deciso di inserirlo come ultimo pezzo per varie ragioni, sia per il fatto che si chiama Radici come il disco stesso, sia per il fatto che io sono un po' un bambino e quindi l'idea di avere alla radice radici all'interno anche proprio del disco stesso mi sembrava fosse molto molto bello, molto significativo. E questo brano è l'unico che non parla di una fiaba o una leggenda. Il testo è stato interamente scritto da Silvia ed è un po' il modo in cui ci piace viverlo noi, è un po' come se fosse la grande morale, il grande augurio che dopo aver ascoltato tutto questo disco noi vogliamo fare alle persone che appunto l'hanno ascoltato. Radici. Perfetto, andiamo ad ascoltare Radici allora. Allora, grazie. Perfetto, perfetto. Questo era il brano Radici. Sì. Questo era quello che, ha suonato anche l'altra sì, volta. Perché che avevi passato, esatto. mi aveva colpito parecchio. Ecco, ora te l'abbiamo suonato anche qui. Bello, dai. Bello. Ottimo, contento, ottimo. Dai. Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro, sicuramente avrete almeno un paio di ascoltatori in più. Sì, sono sì, contento, sì, sì, dai, sì, sì. Sono contento. Ma poi ti volevo chiederti un'ultima roba. Io ho visto che voi partecipate, o perlomeno, mi sembra che partecipate a molti festival, tra virgolette, medievali, giusto? Ma più che altro volevo capire un po'. Molti festival più che altro in contesti molto legati alla natura e all'ambiente. Okay, cioè, okay. Nel senso, vorrei a questo punto ne approfitto per fare un po' di pubblicità, visto che abbiamo dei certo, concerti. Sei qua apposta. Sì, ecco, no, giusto perché il prossimo concerto che faremo sarà l'11 giugno a Marzabotto, vicino a Bologna, all'interno di un agriturismo bellissimo che si chiama Al di là del fiume. Ed è un agriturismo gestito da delle persone incredibilmente brave e interessanti. Ci sarà appunto un buffet vegano e un fuoco intorno al quale poi alla fine noi suoneremo dopo aver mangiato, eccetera. Poi dopo ci fermeremo perché la giornata di oggi è stata l'ulteriore conferma che fa caldissimo. Sì, ci fermeremo fino a settembre. E a settembre invece avremo il 3 in Veneto all'interno di un posto che si chiama Casetta, che poi è anche la nostra stessa casa, etichetta. La nostra stessa etichetta, che è veramente una casetta in mezzo a un bosco, cioè si chiama Casetta ma è realmente una casetta in mezzo a un bosco, e là ogni tanto loro organizzano eventi in acustico perché chiaramente non essendoci corrente. Quindi il 3 settembre saremo là, il 16 saremo a Genova in un'abbazia bellissima di San Bernardino, un'abbazia sconsacrata. E credo e poi alla fine di settembre saremo di nuovo a Bologna al Tarkaban in Pratello. Tutte, diciamo, gli ambienti che noi preferiamo personare sono proprio quelli che alla fine ispirano anche noi stessi nel fare le canzoni, cioè in mezzo alla natura, perché in fin dei conti le nostre canzoni nascono un po' così, cioè io e Silvia andiamo, per dire, appunto in montagna nella zona di Macugnaga, che voi ben conoscete, poi sai, nel bosco ti metti lì e iniziando un pochettino a improvvisare proprio all'interno del bosco stesso, poi... Anzi, ne approfitto per dire che la prima canzone del disco contiene una registrazione ambientale che è stata fatta proprio in una giornata per noi molto importante, perché è stata l'estate scorsa, e c'è una cosa molto, molto che io credo quasi incredibile, perché nel momento in cui nell'arpeggio iniziale, la canzone si chiama Fiabe e Leggende, è un po' un intro, c'è un momento in cui la chitarra si ferma e un uccellino fa semplicemente... Ecco, per me questa cosa qui vale tutto il disco, perché è bellissimo, cioè è proprio come cercare di... Avete catturato il momento, sì, giusto? Cioè nel senso, cerchi di prendere, di dare alle persone, anche se in maniera molto umile, la sensazione che si prova stando in quegli ambienti, ecco. Questo è quanto, insomma. Ho capito, ho capito. Va bene, va bene, io vi ringrazio. Noi ringraziamo voi per la possibilità. Mi scuso per il caldo, ma quello purtroppo non ci possiamo fare molto. Vedremo di attrezzarci. Di attrezzarci, dai. No, anzi, grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Radio Lupo. Ma io direi che magari a settembre ci risentiamo per una intervista telefonica, qualcosa, così ci dite anche guarda, un po'. Tanto nel senso, potremmo anche fare qualche cosa proprio magari... in diretta dai boschi su montagne. Perché no, perché no, non sarebbe male. Sì, sarebbe il massimo. Allora salutiamo i Murmurmori, tanto rimarranno qua ancora per un pochettino. Sì, sì, tanto il programma è quasi giunto alla fine e andiamo ad ascoltare un altro po' di musica. Ciao a tutti. Art is a mean meditation, staring at a blank screen. In between what we mean and the things we say. Come. throw away. To create complicated, it's the same damn thing. Once it's made, I'm too good to appreciate. So I tried to put a little piece of myself in, keep the pretty people listening. Concludiamo un po' la serata di Wolf Trips con gli ultimi brani e le ultime novità, dopo aver avuto i Murmurmori ospiti oggi. Questo era il brano di Anima con Blood, un brano nuovo, lei viene dalla California e è un brano molto, molto interessante, molto bello. Andiamo ad ascoltare adesso un remix di Waves, il brano è True Friend Out of Love. Take till your faith is broken. Tell me how long will you wait for the door to open? Well, I know you never really know. So hear me out. If you're running out of love, then I can fill you up. And when it gets too much, just hear me out. If you're losing all the haze, well, so hear me out. E questo era il brano di True Friends Out of Love Waves Remix. I Waves sono un gruppo Frank Jant e Spencer Bridle. Loro vengono rispettivamente da Toronto, in Canada. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano della giornata, un brano che abbiamo già ascoltato all'interno di Wolf Trips, e il brano è Naxos Paper Tiger. Loro sono invece austriaci e iniziano a lavorare con l'etichetta Unity Group della Francia dal 2013. Andiamo ad ascoltarlo con Naxos Paper Tiger. Del lupo. E anche oggi siamo arrivati al termine di questa scintillante puntata. Stavo straparlando oggi con questo naso tappato, mi viene da straparlare. Abbiamo ascoltato veramente molta musica interessante, riascolteremo sicuramente i brani di oggi un po' più in modo più approfondito, dato che oggi abbiamo lasciato più spazio in realtà al live dei Murmur Mori, che è stato molto bello, molto interessante. Vi chiederete un po' anche il perché di questo live, di questa musica, e in realtà c'è il motivo, perché comunque Wolf Trips si propone di fare un viaggio nella musica underground, e devo dire la verità che loro sono veramente molto molto underground. Allora, rinnoviamo l'appuntamento a settimana prossima. Vi ricordo che ormai siamo alle ultime puntate di Wolf Trips, perché poi dopo a luglio andremo anche noi in pausa, riprenderemo poi a settembre. E inoltre dalla settimana prossima andremo avanti a fare le nostre esplorazioni musicali. farò una puntata speciale sicuramente come ultima puntata in cui raccoglieremo un po' il meglio della musica ascoltata di Wolf Trips di questa prima stagione. E niente, vi rinnovo l'appuntamento a settimana prossima, e per chi fosse dalle parti di Marnate, domani sera siamo a fare un DJ set come Wolf Trips, quindi con la musica del programma, dalle 18 in avanti. Ci vediamo lì per chi si dovesse trovare in quella zona. Ciao!